beh, Billy, su che andiamo, Billy. CQ canale 10, c'è qualcuno? Natalino? Marco, ci sei Marco? Luca? Luca, tu sei? Beh, il provvedimento ora va in Senato per essere approvato lì. Passa questo perché il governo ha la maggioranza dei voti, quindi le leggi che propone il governo passano. Cos'è successo? Che il PD propone un salario minimo. Il governo su quella proposta fa delle modifiche, delle proposte di modifica, dove le proposte di modifica di fatto cambiano totalmente la proposta del PD. Quindi non è che viene cancellata la proposta del PD, viene svuotata, rimane una scatola vuota con il titolo salario minimo, dove il governo con la sua proposta di modifica, visto che ha i voti per votarla, per farla passare, propone di modificare il salario minimo della sinistra, quindi svuota questa legge e la riempie con un'altra proposta che poi viene votata appunto dalla maggioranza e passa un'altra legge. Antonio! Istituzionale. Non vi volete confrontare. La maggioranza è la maggioranza, ha vinto le elezioni, se vuole si confronta, se no non si confronta, non c'è scritto da nessuna parte che ci debba essere il confronto. C'è il Parlamento! Il Parlamento si vota, sì, no, e la minoranza perde perché si chiama minoranza verso le elezioni, quindi perde anche quando si fanno le leggi. Proposto dalle opposizioni, minoranze, quelli che hanno perso le elezioni, hanno fatto una proposta e ovviamente non è stata accettata perché il governo l'ha modificata. Quindi il salario minimo del governo non si chiamerà salario minimo, avrà un altro nome, come è stato cambiato il nome anche al reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza finisce il 31 dicembre ma ne comincia un altro il 1 di gennaio con un altro nome indirizzato a un altro numero di persone. Che cosa prevede questo salario minimo che si chiamerà equa retribuzione, la legge sull'equa retribuzione? Che cosa prevede? Intanto la proposta del salario minimo a 9 euro lordi della sinistra viene cancellato. Vi posso dire che 9 euro lordi era la proposta dei grillini 7 anni fa, che oggi non è più reale 9 euro lordi, perché 9 euro lordi, mettendo quella cifra lì, le persone rimangono in povertà. Perché è una cifra vecchia di 7 anni, non hanno avuto neanche la forza con la calcolatrice di cercare di attualizzare quel 9 euro, troppa fatica. Ebbene, non si sveglia nessuno? E chi è questo che si sente male? Avanti. Chi è questo addolori che si sente male? Avanti. Giulio. Ah, tu sì. Oh yeah. Questa cattaglietta che mi uccide per questa, non c'è spazio nemmeno per fare Brexit, troppa gente c'è. E soprattutto tutte 39 canali pieni. Ah, sono 39, no, io ne ho 40, ne ho. Uno, tu l'hai perso tu, quello non ti piace. No, siccome siamo già su un canale, ho detto, tutti gli altri 39 sono pieni. Allora, tutti sono pieni, ma tutti. Tu pensa, ragazzi, che anche il QRM non mi lasciava spazio per fare break. Troppa gente c'era. Ma cosa vuoi fare giù? Proprio che è Natale, è finita l'estate e sta iniziando il Natale. Allora, sono tutti impegnati scartando i regali che hanno già ricevuto in anticipo, perché noi siamo portati al consumismo. L'ha detto la Meloni, più spendete e più vi rimborso. Allora, adesso me l'ha fatto la nuova legge, ho fatto per il reddito del salario minimo, che poi non si chiamerà più salario minimo, ma la sinistra non è d'accordo, come sempre, perché quelli sono quelli del no, non sanno dire altro che no. Si vede che quando sono nati la prima cosa che hanno imparato a dire è no, no, no. Allora, quella, stamattina a Cagliari mi pare, mi sono messo il giornale, tutto quel casino che stanno facendo per gli infermieri, i medici, per fare le nuove assunzioni, e poi hanno fatto vedere che hanno stanziato 50 milioni per Sant'Elia, per rifare Sant'Elia. Oi, oi, e la sanità sempre a fanguallera. Infatti, è quello che ho sempre detto io, con quei 50 milioni che hanno dato al Cagliari per fare il Sant'Elia, cioè il nuovo stadio, ma perché non aggiustano le strade oppure li mettono per la sanità quei soldi? E aumentano gli stipendi dei dottori e degli infermieri che stanno scappando tutti quanti all'estero, stanno scappando, perché gli offrono 20.000 euro al mese. E poi magari se più di uno se ne è ammalato di questi dottori e vengono in Italia a farsi curare. Io a quello l'avrei preso, a calci in bocca l'avrei preso, perché qua se sono laureati a spese dell'Italia, se sono laureati e poi se ne sono scappati fuori, se ne sono scappati per i soldi. E adesso quando ci sono ammalati vogliono rientrare per essere curati sempre dagli italiani. Ma te lo metti che da di faccia pudolata che hanno questi bastardi. E poi la Meloni dice, guarda, i sardi hanno, si lamentano per la sanità, per il lavoro, per qui e per là, e hanno preso 50 milioni per aggiustarsi lo stadio. Così vanno a pensare questi politici. Dice, allora non ne hanno bisogno di soldi questi, perché quelli che chiedono, richiedono per aggiustare gli stadi, e ne devono stanziare altri per gli altri stadi della Sardegna. Chi si è buttato? E allora, ma non lo so, Guido, non è possibile. Sì, ma non è solamente il fatto dello stadio di Cagliari, è tutta l'Italia, ragazzi, che è messa male a livello di sanità, perché dovrebbero riportare, sì, lo so, hanno dato 3 miliardi in più, è vero che li hanno dati, però non sono contenti, invece prima che avevano tutti questi soldi in meno, erano contenti questi altri bastardacci. Io dagli 3-4 giorni fa ho sentito un medico che prende oltre 5.000 euro al mese di stipendio, dice, però dice sono al massimo della carriera. Accidenti, io che razza di cosa eccezionale che hai fatto. Non è che pensi che tutto il resto degli anni che hai lavorato ti hai preso lo stipendio da una bambola a confronto con quelli che lavorano in maniera manuale, come ad esempio i muratori, i fabbri, i falegnami, quelli che lavorano sottoterra in miniera. Questo non conta, non saranno uomini come te. Capito? Tu hai scelto di fare il medico, nessuno te l'ha detto che dovevi fare per forza il medico. Hai fatto e hai guadagnato anche, cosa vuoi di più? Chiamano lo scemo. Perché dicono adesso studio tanti anni e non smettono mai di studiare, poi anche questa gente, però a fine mese, capito, è giusto che sia così, come tante altre categorie, e purtroppo la classe operaia è sempre chi, sai. Sì, ma tu devi pensare che chi mantiene loro sono soprattutto la classe operaia, per cui non possono lamentarsi più di tanto, perché se prendi oltre 5.000 euro al mese di stipendio, non è uno stipendio da morte di fame, anche se ancora non hai raggiunto l'età pensionabile, che tu a 60 anni se guadagni 5.000 euro, oltre quasi 5.500 di stipendio al mese, anche se hai studiato tutto quello che vuoi, non giustifica il fatto che tu debba fare sciopero per quella cifra. Casomai puoi fare delle richieste a lungo termine, ma non puoi mettere in condizioni una nazione di avere dei problemi sanitari solo perché tu, per la tua bella faccia, per il tuo egoismo di guadagnare ancora di più, vuoi fare lo sciopero lasciando le persone senza curare. Ma vuoi scherzare? Infatti. La videolina non potrebbe essere stamattina. C'è crisi di medici e di infermieri. E gli infermieri hanno probabilmente ragione più di loro anche, perché quelli fanno un lavoro umile che devono pulire il sedere ai malati che non si possono muovere dal letto, perché quelli hanno probabilmente più ragione di certi medici, perché il medico il meno che prende, io l'ho sentito alla televisione, l'hanno detto loro in quei dibattiti che fanno di politica, minimo 3.500 euro al mese, e uno con 3.500 euro al mese vive da Nambabu, vive. Invece no, loro, perché poi hanno, tra l'altro hanno gli ambulatori privati e fanno le visite a 100, 200, 300 euro al mese senza nemmeno fatturare, già lo sappiamo come funziona, no? Fatto lavoro, poi le visite nella sede italiana, cioè del governo, negli ospedali, e loro si prendono i soldi. E poi bisogna quando vanno in pensione quanto gli spetta di pensione anche. Appunto, dopo poi lo pensiamo di pensione, che prendono un sacco di soldi, prendono lo stesso. Capisco che meriterebbero anche più, ma tutti meriterebbero di più in Italia, ma non solamente i medici, tutti indistintamente, incominciando dalla classe operaia e soprattutto dai poveri lavoratori, quelli che hanno un handicap, eccetera, che non possono lavorare, che hanno sempre fatto la fame, da sempre. Però hanno mantenuto l'Italia in piedi, perché sono loro quelli della manovalanza, quelli che producono. Che ci vuoi fare più crisi? Ci sarà più gente furba, ci sarà. Ma è una vergogna, dai, è una vergogna. Se non la puoi usare la Ferrari, non la usi, usi la 600 e vai lo stesso, vai, lontano dove ti porta la Ferrari. E invece no, il cliente va ridotto, vale di là, è cosa. Ma quando mai? Uno posso capire, ricco di famiglia, vabbè, ce li ha i soldi e li spende, ma che uno voglia essere così esagerato nel dover guadagnare, soprattutto questi dottorini che non sono ancora capaci di fare, di esercitare il proprio lavoro, già lo vediamo al pronto soccorso, vai lì e non capiscono un accidente di quello che uno ha, eppure anche quelli sono ben pagati lo stesso, però non sono contenti, dottorini di 30 anni, a 30 anni un laboratorio cosa prende? Prende veramente una paga da morto di fame, ma un medico che prende oltre 3.500 euro al mese, non mi sembra che sia poi così morto di fame. Ma vogliono di più perché sono viziosi. Perché sono egoisti e vogliono vivere a quattro canacce, mangiare a quattro canacce, ecco qual è il problema. Finché ci sia da aumentare tutti va bene, non c'è problema, ma nelle condizioni in cui si trova l'Italia oggi, cosa vuoi aumentare con tutti i debiti che ci sono, soprattutto con quei debiti che hanno lasciato la sinistra, che l'Italia sta pagando 20 miliardi all'anno, al mese sta pagando di debito che ha messo quell'imbecille di Conte. Sì. Stessa cosa, adesso devo rispondere al messaggio giù. Ok.